verso il voto. Benvenuti al punto politico della giornata, un saluto da Elisabetta Fiorito. Iniziamo con il Popolo della Libertà, Silvio Berlusconi interviene a Porta Vincenzo Miglietta. Programma del Popolo della Libertà, candidature, ironie sul Partito Democratico e un Silvio Berlusconi a 360 gradi, quello che dagli studi di Porta a Porta fa il punto sull'attualità politica. Il Cavaliere parte dalla guerra dei sondaggi e ribadisce il distacco tra il Popolo della Libertà e il Partito Democratico era ed è rimasto di 10 punti. In casa nostra c'è molta tranquillità, abbiamo fatto e rifatto i sondaggi con case diverse, ultimamente anche un grande sondaggio su 30.000 italiani diviso regione per regione, e siamo assolutamente convinti che il sistema di questa legge ci porta ad avere oltre 70 deputati in più alla Camera e 30 e più senatori al Senato. Cavaliere si dice tranquillo anche per il Senato ed annuncia: vinceremo in regioni che in passato erano appannaggio della sinistra. Un esempio tra tutti, spiega, la Campania, dove i cittadini hanno ben chiare le responsabilità di Bassolino. C'è però un fatto che preoccupa il leader di Forza Italia, e cioè dice che non tutti gli elettori del centrodestra hanno chiaro che dare il voto ai partiti minori significa favorire il PD. Berlusconi boccia poi la par condicio e sulle priorità per il paese ricorda il programma del PDL e dagli interventi fiscali per le famiglie, con l'eliminazione dell'ICI per la prima casa, alla rivalutazione dei redditi da lavoro dipendente. Dal rilancio dello sviluppo economico, con una nuova politica energetica, al taglio della pressione fiscale per le imprese. Non metteremo mai le mani nelle tasche dei cittadini e cercheremo di diminuire la pressione fiscale sotto il 40%, dice ancora Berlusconi, che conclude: farò un nuovo contratto con gli italiani e lo realizzerò al 100%. Sulle liste Gianfranco Fini dice che AN è addirittura d'arrivo, mentre su un possibile accordo con il Partito Democratico per un governo di larghe intese risponde Gianni Alemanno. Nessuna accordo con Veltroni, soltanto un impegno a fare le riforme sulle regole del gioco insieme, ma il governo deve essere espressione di una precisa volontà politica. Nel Partito Democratico invece è sempre scontro tra il segretario Walter Veltroni e i radicali. Veltroni non ha intenzione di ritoccare le liste che sono state chiuse lunedì e critica l'iniziativa di Marco Pannella di fare lo sciopero della sete. È una forma di lotta che secondo me è più giusto attuare, come hanno fatto nei loro momenti migliori i radicali, per le grandi questioni come la pena di morte, come le grandi battaglie civili che hanno visto impegnati i radicali. È un po' meno giusto farlo per cose che hanno una dimensione diversa. Noi abbiamo fatto un patto con loro e non è stato semplice farlo, come risultato evidente, l'abbiamo fatto con grande convinzione. Lo voglio dire molto sinceramente, non è che può essere scambiato un accordo politico fatto per una sfida di innovazione riformista per una specie di tram nel quale si prenotano i posti e si viene portati. Ma Pannella insiste sul rispetto dei 9 candidati sicuri e continua lo sciopero della sete. L'obiettivo dello sciopero della sete, che avverto come urgente, è uno solo: diffondere la consapevolezza della importanza e della possibilità della parola data. Dario Franceschini, numero 2 del PD, invece risponde a chi critica la compilazione delle liste. Noi ci auguriamo che tutti gli altri partiti che si presentano a queste elezioni facciano qualche passo in questa direzione, raddoppiando, come abbiamo fatto noi, il numero di donne elette, triplicando il numero di giovani eletti sotto i 40 anni, ampliando in modo così vasto la rappresentanza di personalità che non hanno una militanza e una provenienza di partito. Polemica a distanza poi tra l'ex presidente di Federmeccanica Massimo Calearo e il prodiano Arturo Parisi. Calearo elogia Clemente Mastella per aver fatto cadere Prodi, Parisi mette in dubbio la sua candidatura nel PD, Calearo si scusa, Parisi prende atto. Nei centristi invece Pier Ferdinando Casini lancia la candidatura di Oronzo Cosi, segretario generale del sindacato di polizia, ma il leader dell'UDC attacca anche l'ex alleato Gianfranco Fini. Poverino, mi dispiace molto perché si vede che ha così scarsa conoscenza dei meccanismi parlamentari che ha perso un'occasione ottima per tacere. Ma poiché francamente polemizzo con Berlusconi, è inutile che polemizzo con i replicanti. Nella sinistra arcobaleno attacco agli imprenditori sul fronte sicurezza, mentre viene esclusa una collaborazione con il PD come prospettato da Massimo D'Alema in un futuro, risponde Oliviero Di Liberto. D'Alema poteva accorgersene prima, perché hanno scelto, quelli del Partito Democratico, non di andare da soli, ma di escludere la sinistra, perché hanno imbarcato Di Pietro, i radicali, la Binetti, cioè gli ultracattolici, hanno messo dentro generali, prefetti, adesso anche il falco di Confindustria Calearo. Beh, insomma, se volevano collaborare potevano pensarci prima. Ed è tutto, un saluto da Elisabetta Fiorito.